Un giorno, il sindaco e il portavoce avvisano i ministri del municipio della loro imminente partenza. Ora voi obietterete che non esistono ministri in un municipio, ma in questo caso nemmeno il municipio esiste, quindi il discorso fila. Torniamo alla storia. Provenendo da un luogo imprecisato in Italia, i due decidono di intraprendere un viaggio diplomatico in un luogo altrettanto imprecisato in Francia. Del resto, la meta doveva essere all'altezza del punto di partenza. Pertanto scaricano da internet delle indicazioni stradali che si riveleranno a breve inutili. Fanno il pieno e si mettono in marcia. Attraversano paesi con strade sopraelevate e riproduzioni nostrane del ponte di Brooklyn. E ad un certo punto vengono inghiottiti da un lungo tunnel fatto di cemento, lampadine e cartelli rassicuranti del tipo: prima o poi uscirai da qui, non aver timore. Una volta espulsi dal buco nero, si ritrovano in una strada deserta frequentata solo da corvi, che li porta direttamente in una città chiamata Lione. Mm-hmm.